Le elezioni amministrative si avvicinano e c'è un progetto che dà supporto a giovani di sinistra che fanno politica diversamente. È fantapolitica.org e ne parliamo con una delle fondatrici, Cristiana Cerri Gambarelli, che è al telefono con noi. Buongiorno. Ciao Alessandro, buongiorno. Allora, innanzitutto, che cos'è Fantapolitica? Fantapolitica, a noi piace pensarlo come un percorso trasformativo. Noi vorremmo portare insieme giovani candidati che hanno bisogno di supporto strategico in vista delle elezioni, ma che hanno anche bisogno e necessitano di un ambiente di scambio e crescita, perché comunque essere giovani candidati in Italia oggi non è semplice, e quindi cerchiamo di offrire questo ambiente. Avete fatto una scelta generazionale, perché questa scelta? Io personalmente lavoro nelle istituzioni a livello europeo e la mia famiglia politica in Europa sono i Verdi europei, non lo rinnego mai, ma in Italia non ne ho una, quindi questo quando ho dovuto pensare e ragionare su cosa fare in Italia mi ha influenzato molto, e per me tornare in Italia è fondamentale, essere comunque coinvolta in Italia è fondamentale, e la nostra scelta è di cercare di portare persone insieme e non di dividere. E poi ovviamente pensiamo che gli individui validi siano attraverso e divise su diversi in diversi partiti, e non vogliamo limitarci a supportarne solo alcuni, ma soprattutto ci focalizziamo sugli individui che hanno tutti meno di 30 anni e nei quali davvero crediamo. C'è ovviamente un recinto, un po' già l'hai anticipato tu, chiamiamolo ideologico, che riguarda appunto politiche ecosocialiste e intersezionali. Sì, assolutamente, cerchiamo di seguire un po' questa ondata di politiche che arrivano dal basso. Tra l'altro, due di noi, delle fondatrici, si sono conosciute alla scuola di mobilitazione politica organizzata da Ticandido, e poi io insomma ho contattato questa ragazza che avevo conosciuto lì, l'ho portata insieme a un'altra ragazza, ed è un po' iniziato da qua. E alla fine ci sono queste iniziative che si stanno davvero sviluppando non solo in Italia ma anche in Europa. Ticandido è una di esse, e comunque fa un lavoro simile a quello che fa Fantapolitica, anche se non ha un focus giovanile, e ci piace molto l'approccio che hanno di politica mobilitazione dal basso, comunque di guardare a persone che hanno davvero delle reti nella comunità e che non sono, tra virgolette, rinchiuse nei palazzi. Esempi simili in Europa ce ne sono, perché tra l'altro arrivano un po' tutti dalla cultura del community organizing americana, di cui tra l'altro sono una grandissima fan, perché dall'esperienza di campagna elettorale per le elezioni europee nel 2019 non mi sono mai staccata da questa cultura. E quindi appunto vengono un po' tutti dall'associazione, o comunque ispirate a Justice Democrats, che è l'associazione che poi ha scoperto e supportato Alexandria Ocasio-Cortez, che oggi, seppur si possa dirle molto, è un modello di alternativo di fare politica per tanti giovani americani. Fantapolitica nel concreto come funziona? Fantapolitica è nel suo primo round. Questo primo round è stato molto messo insieme alla velocità della luce, perché l'idea è nata il 15 maggio e siamo a fine agosto. Quindi il nostro primo approccio è stato molto spontaneo e informale, abbiamo lavorato per contatti diretti, abbiamo cercato le liste che ci interessavano e contattato le liste per trovare appunto potenziali candidati. Tutto questo è stato fatto da noi tre fondatrici, e siamo riuscite a mettere insieme un gruppo di 16 fantacandidati e fantacandidate, come li chiamiamo noi, che lavoreranno con noi fino alle amministrative, e sono suddivise su diverse regioni: Emilia Romagna, Puglia, Campania, Piemonte, Lombardia, Lazio, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Purtroppo non siamo riusciti ad andare più in là, ma ovviamente per le amministrative stiamo lavorando online, abbiamo degli incontri che sono formativi, si focalizzano su determinati temi che consideriamo importanti. Per esempio questo sabato sarà sulla comunicazione politica, e poi ovviamente abbiamo grandi progetti per il dopo, perché questa appunto è stata una messa insieme molto spontaneamente. Vogliamo anche poi fare un po' di strategia per il prossimo round, che speriamo cominci già subito dopo le amministrative, per ragionare sulle prossime elezioni. Quindi giovani di diversi partiti che però condividono, come dire, un percorso e un approccio alla politica. Sì, assolutamente, infatti per noi è molto importante il metodo di educazione non formale, quindi non stiamo organizzando molte lezioni frontali, ma stiamo davvero organizzando possibilità di scambio, questo di cui ti parlavo della comunicazione comunicazione politica sarà un dibattito, una simulazione di un dibattito in uno scenario immaginato che però ovviamente ha molte cose in comune con la realtà dell'Italia di oggi, e cerchiamo di in questo modo aiutare i fantacandidati a sviluppare determinate skills. Però gli diamo anche uno spazio dove potersi lamentare, perché ovviamente candidarsi non è solo positivo, insomma, quando puoi ricevere pressioni dalla tua lista, quando puoi avere problemi, avere scontri anche interni, magari avere un posto dove lamentarti, dove trovare persone che comunque stanno probabilmente sperimentando o andando incontro a cose simili alle tue. Allora ti chiedo a questo punto di dire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici dove poterne sapere di più. Ci trovate su fantapolitica.org, come hai già menzionato tu, e poi su Instagram, LinkedIn e Facebook come Fantapolitica, col punto esclamativo o senza, dipende. Ti ringrazio e insomma buon lavoro. Grazie mille Alessandro, buona giornata, grazie di averci invitate.